stiamo parlando di questo, stiamo parlando di usare un cellulare in auto senza che ci scoppi la bag addosso, stiamo parlando di prevenire questi eventi, di avere un pacemaker che funziona pure se vicino c'è un cellulare, se siamo in presenza di un elettrodotto, di una stazione radio. I nostri elettrodomestici che convivono alimentati sulla stessa rete introducono disturbi, ricevono disturbi, eppure continuano miracolosamente a funzionare. Quindi insomma è una slide un po' pittoresca, una serie di disturbi che si irradiano, che arrivano da cavi, che sono causati da fenomeni naturali. Tutto questo va sotto il nome di compatibilità elettromagnetica. In termini rigorosi è quella disciplina che tratta i fenomeni elettromagnetici da dispositivi, apparecchiature e che in qualche modo sovraintende alla coesistenza di tutti questi dispositivi. Questo perché ogni apparecchio elettronico, ogni dispositivo è potenzialmente fonte di disturbi e allo stesso tempo è vittima di disturbi che possono essere generati nell'ambiente da altri dispositivi cattivi. Quindi insomma in qualche modo per far sì che tutti questi dispositivi possano essere utilizzati c'è un palcoscenico legislativo che in qualche modo porta ad avere un marchio di conformità che afferisce alle norme IMC così chiamate, che sono le norme per la certificazione elettromagnetica. È stata un'evoluzione normativa, attualmente la più recente è entrata in vigore proprio a luglio di quest'anno ed è la direttiva del 108 del 2004. Adesso qua vi racconto proprio delle sciocchezze, insomma il taglio della presentazione è volutamente abbastanza leggero, però vediamo un attimino da dove nascono queste problematiche di elettromagnetismo. Immaginiamo di avere un circuito, questo circuito può essere presente sia su un computer portatile, su un telefonino, ma più in grande si può pensare anche alla rete domestica di casa, attacchiamo proprio le prese. E su questo circuito circola un segnale in qualche modo periodico, come può essere una sinusoide, eccolo qua, segnale periodico che conosciamo tutti. Questo segnale ha una sua occupazione nello spettro della frequenza, quindi occupa una porzione di banda nel dominio delle frequenze che è proporzionale alla velocità con cui questo segnale si muove, quindi al periodo. Ecco perché un segnale di un certo tipo si posiziona a una frequenza, uno un pochettino più veloce, quindi col periodo più stretto sta a una frequenza leggermente superiore e così via. E così ad esempio se abbiamo un segnale che ha una frequenza di 88,1 MHz, ecco che siamo nei pressi di Rai 1. Se invece abbiamo un segnale intorno ai 900 MHz siamo sulla banda GSM, o se andiamo ancora più su per parlare di Wi-Fi, Bluetooth, questi protocolli, sulla banda ISM 2,4 GHz il segnale è ancora più veloce. Adesso questi esempi che io ho fatto sono tutti segnali che vengono generati in modo voluto, quindi in qualche modo chi li concepisce li pensa perché questi si propagano, noi vogliamo che vengano trasmessi, vogliamo che la nostra radio riceva Rai 1. Perché dico questo? Perché sappiamo a priori che loro avranno un'occupazione in banda abbastanza predefinita. Inoltre c'è da dire che in effetti un segnale modulato, quindi che possa trasmettere delle informazioni, ha anche un'occupazione di banda che è un pochettino più estesa rispetto a un semplice sinusoide. Così ad esempio un segnale AM, vedete viene messo in evidenza su questo cerchietto azzurro, un segnale modulato ha un'occupazione in banda che è dovuta proprio al fatto che stiamo trasmettendo delle informazioni. Quindi fatta questa premessa, supponiamo di avere il nostro segnale a 900 MHz che trasmette dei dati, quindi ha un po' di occupazione di banda, e vediamo di capire perché ci possono essere dei problemi. Beh, ad esempio dei problemi ci possono essere perché se noi abbiamo un circuito che all'interno contiene un clock, quindi un segnale che vorrebbe in qualche modo restare all'interno del circuito stesso, che ha la forma di un'onda quadra e che magari ha una frequenza propria di 300 MHz, se per qualche motivo questo segnale non resta confinato all'interno della scheda per cui è stato progettato, non so, il circuitino portatile, il microcontrollore, questo segnale tenderà ad irradiare con uno spettro peraltro abbastanza complesso, che sfortunatamente può andare a sovrapporsi con la trasmissione e da questo portare a delle interferenze del segnale. Se poi il segnale, come spesso succede, non è né un bel sinusoide né una bella onda quadra, è un insieme di segnali spuri che si compongono tra di loro, lo spettro assume le forme più svariate. Se ancora questo segnale cattivo finisce dentro un circuito, in qualche modo questo si propagherà all'interno del circuito lungo i suoi cavi e potrà finire, ne so, ad esempio sull'elettrodomestico di prima, o addirittura potrà il cavo stesso emettere e irradiare, e quindi ecco che nascono i problemi di interferenze con le comunicazioni di cui abbiamo appena fatto cenno. Bene, quindi tornando a parlare di compatibilità elettromagnetica, abbiamo capito ci sono due grosse problematiche: una di emissione, quindi quanto un dispositivo tende a disturbare l'ambiente circostante, e l'immunità, cioè quanto un dispositivo invece è robusto rispetto ai disturbi che possono essere presenti attorno al dispositivo stesso. Inoltre abbiamo ancora capito, sempre con quell'esempietto semplice di prima, che ci sono due strade che questi disturbi preferiscono utilizzare. Una è quella di propagarsi lungo i cavi, che possono essere sia i cavi di alimentazione sia i cavi di segnale, PC, USB, stampante, video e quant'altro. E quindi si parlerà di emissioni condotte, quindi quanto un dispositivo disturba questi cavi con cui è collegato, e di immunità, cioè quanto un dispositivo resiste nonostante dei disturbi tendano a comprometterne il funzionamento. L'altra strada che abbiamo visto è quella dei disturbi irradiati, cioè quei disturbi che si propagano nello spazio libero come vere e proprie onde elettromagnetiche e che quindi vanno a interferire i dispositivi, e ancora si parla di emissioni irradiate o di immunità irradiata. Quindi, ricapitolando un attimino questa prima parte introduttiva, abbiamo parlato di emissioni, abbiamo parlato di immunità, abbiamo parlato di disturbi condotti, disturbi irradiati. C'è un palcoscenico legislativo che comprende norme di base, norme generiche, norme di prodotto, e questo in effetti è un palcoscenico anche piuttosto vasto e complesso. Adesso stasera non entriamo certo nel dettaglio. Ad ogni modo, individuare le norme di riferimento del prodotto è spesso un'operazione complessa, perché capita di dover misurare, di dover certificare dei prodotti che non sono ancora in commercio, che non esistono. Stiamo parlando di tecnologia estrema, per cui non è quasi la norma per quel prodotto. Bisogna rifarsi a famiglie di norme, rifondursi e alla fine ottenere la certificazione del prodotto, che viene svolta da degli organismi competenti e qualificati. Proprio per questo ci sono, diciamo, in qualche modo due strade, due strategie per condurre queste misure. Una che full compliance prevede proprio l'ottenimento della marcatura, della certificazione. Una in pre-compliance, che si svolge, diciamo, in modo più casereccio per verificare eventuali problemi che il dispositivo può avere in fase di pre-test. Le misure full compliance si svolgono presso dei laboratori accreditati, i quali si devono assolutamente attenere a quelle che sono le norme e le direttive prescritte nelle norme stesse. Quindi sono fissati una serie di parametri: il sito di misura, le caratteristiche degli strumenti, il posizionamento dei cavi, il setup, e questo per fare in modo che il test risulti ripetibile quanto più possibile, nel senso che se io certifico un prodotto in un laboratorio, domani mattina porto lo stesso prodotto su un altro laboratorio, diciamo l'interesse e l'aspettativa fosse che il risultato tra i due laboratori fosse congruente: o questo dispositivo si certifica o non si certifica. E questo perché effettivamente, anche per esperienza personale, quando si fanno queste misure la variabilità è veramente elevata, basta spostare un cavo di pochi centimetri per ottenere a volte risultati veramente molto diversi, e quindi le norme descrivono in modo accurato proprio la posizione dei cavi: 30 cm dal piano di massa, 10 cm di altezza, una cosa molto, molto meticolosa e precisa, anche pesante per certi aspetti. Inoltre questi laboratori dispongono di strutture, di strumenti, di personale competente, e quindi appoggiarsi a un laboratorio di certificazione è estremamente costoso. Lo si fa proprio nell'ultima tappa, quando si è per lo più sicuri che il prodotto tenda a superare i test ed essere certificato. Altrimenti, come dicevamo, uno può farsi delle misure in modo un po' casereccio, questo non certo per certificare il prodotto, ma piuttosto per rendersi conto di dove potrebbero essere eventuali problemi. Queste sono un pochettino più rilassate, nel senso che si possono utilizzare strumenti non necessariamente full compliance, ma hanno sostanzialmente l'obiettivo di individuare eventuali problematiche legate al dispositivo stesso. Qui c'è proprio un esempio di quello che può essere una differenza tra un analizzatore di spettro, che è, per intenderci, uno strumento tipo questo, dopo lo vedremo in dettaglio con il collega, che può costare addirittura più del doppio se questo deve essere uno strumento certificato per misure full compliance. Altra nota, questa in realtà si estende su diversi ambiti, però anche in questo settore fare degli interventi o prevedere alcuni accorgimenti in fase di progetto ha dei costi nettamente inferiori rispetto a farli una volta che il prodotto è ultimato e finito. Così in fase di progetto possiamo prevedere dei piani di massa, dei filtri, dopo bisogna ricorrere a soluzioni che possono essere disastrosamente costose. Allora, abbiamo tanto detto che questi laboratori certificati sono costosi perché dispongono di attrezzature costosissime. Ad esempio, l'ambiente in cui vengono svolti questi test è chiaro di quanto effettivamente possa crescere il costo per questi laboratori. Parliamone un attimo. Dunque, se voglio valutare quanto emette un dispositivo, devo essere sicuro di misurare i disturbi generati solo da quel dispositivo. La norma dice: mettetevi su un posto privo di sorgenti elettromagnetiche. Ora, forse questo posto esisteva 50 anni fa, quando sono state concepite queste norme. Io credo che oggi questo posto non ci sia quasi da nessuna parte. Per cui ci si inventa, si realizza meglio, degli ambienti così chiamiamoli virtuali, chiamati camere anecoiche. Ovviamente hanno le dimensioni più disparate, nel senso che al loro interno può starci il telefonino, ma deve starci magari anche l'aereo o il gruppo refrigerante del chiller o quant'altro. Queste camere cosa hanno di particolare? Queste camere sono essenzialmente schermate, per cui i disturbi esterni non entrano dentro queste camere. Allora siamo sicuri che se posizioniamo all'interno un dispositivo sotto test, quello che misuriamo è effettivamente il solo disturbo generato da questo dispositivo. Tutto questo però ancora non basta, perché se noi partiamo da quella che era la prescrizione normativa, questo dispositivo deve trovarsi in spazio libero, cosiddetta condizione di spazio libero, ovvero le onde elettromagnetiche devono in qualche modo morire all'infinito, nel senso che non si devono riflettere, essendo la camera schermata e fatta invece proprio di materiale riflettente, per cui all'interno di questa camera queste onde in qualche modo non devono riflettersi. Per ottenere questo si ricorre a dei materiali assorbenti che sono estremamente costosi, sono costituiti di piastrelle di ferriti piuttosto che di coni anecoici, e tutta la camera va tappezzata di questo materiale. Questa è un'operazione, come già detto, estremamente costosa. Quindi, ricapitolando, una camera anecoica è una camera schermata che isola dei campi elettrici, isola dei campi magnetici e in qualche modo deve farsi imbrogliare le onde che si generano all'interno e far credere che queste siano sullo spazio libero, e quindi, mediante questi coni anecoici, farle morire, fatemi usare questa parola, sulle pareti. Qui vedete due esempi, quello che dicevo prima, le dimensioni possono anche essere consistenti, vedete i coni sono azzurri, grigi, dimensioni diverse. Questo sono io, stiamo posizionando un'antenna di misura su una camera che è qui, su un centro di ricerca che sta in zona industriale e che si occupa appunto di misure di compatibilità elettromagnetica. Vedete, in basso a destra si possono scorgere i coni anecoici, poi per il resto sono tutti tappezzati da queste piastrelle bianche. Questi sono dei white gap, hanno essenzialmente lo scopo, uno, di proteggere questo materiale, perché è estremamente delicato, toccandolo, schiacciandosi può proprio perdere le sue proprietà, E inoltre hanno lo scopo, non inutile, di dare luminosità alla camera. Se fate riferimento alle foto di prima, questa è molto più luminosa. Boh, questa è una camera piuttosto grande, è stata ultimata qui a febbraio di quest'anno, si vede anche dall'altezza del palo. Questa è una camera di 5 metri di altezza per 10 di lunghezza, è schermata fino a 40 GHz, quindi per intenderci 40 volte la frequenza del GSM, oltre 40 volte la frequenza del GSM, e è costata circa quella cifra lì. Per questo dico, sono materiali e strutture particolarmente costose. Bene, io Lumino sorride perché adesso ha capito di cosa si tratta. Io lascerei la parola agli altri due relatori che andranno un pochettino più nel dettaglio, nell'aspetto normativo e poi nell'ultima parte molto interessante di misure sul campo. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Diego Dainese dello studio associato Dynamic. Anch'io vi parlerò di campi elettromagnetici, di compatibilità elettromagnetica, però non più da apparato ad apparato, ma da apparato verso la persona, in particolare verso il lavoratore. Parleremo infatti del testo unico sulla sicurezza negli ambienti di lavoro e vedremo come il testo unico ha introdotto anche la valutazione dei rischi da esposizione ai campi elettromagnetici. Qui proprio brevemente non vi voglio tediare con nozionismi di elettromagnetismo, ci basta solo sapere quali sono le unità di misura, tanto per richiamarle, siete tutti ingegneri, le richiamiamo velocemente. Campo elettrico si misura in volte su metro, campo magnetico in unità su metro, oppure attraverso il campo induzione magnetica, che comunque adesso è legato in Tesla. Da dire che il campo elettrico lo abbiamo sempre, ogni qualvolta abbiamo presenza di cariche elettriche, quindi differenza di potenziale, quindi banalmente anche su una presa elettrica non utilizzata, cioè nella quale non è applicato un carico, abbiamo sempre campo elettrico. Il campo magnetico ce l'abbiamo quando le cariche sono in movimento, le cariche sono in movimento quando abbiamo corrente elettrica che fluisce su un circuito. Da qui anche il grosso legame tra campo elettrico e campo magnetico, che anzi alle alte frequenze uno sostiene l'altro, grazie alle equazioni di Maxwell. Le radiazioni non ionizzanti sono proprio le radiazioni che il testo unico prende in considerazione, perché sono le radiazioni che vanno da 0 Hz a 300 GHz, sono tutte quelle usate nelle telecomunicazioni. Sono non ionizzanti perché hanno un'energia, diciamo, non sufficiente a ionizzare l'atomo, quindi a rompere, diciamo, i legami atomici che sono in prevalenza nell'acqua, che siamo composti da acqua e quindi questa cosa ci interessa ben da vicino. Tutte le frequenze superiori ai 300 GHz, per le quali appunto si ha un'energia di, maggiore a 12 electron volt, sono invece ionizzanti, sono i raggi X, raggi gamma, raggi delta. Nelle frequenze invece che utilizziamo nelle telecomunicazioni, abbiamo in sostanza effetti termici dovuti appunto a una trasformazione di energia da elettromagnetica a calore, cioè le nostre particelle vengono messe in vibrazione, un po' come l'effetto del microonde, diciamo. Ovviamente questo effetto termico dipende senza dubbio dall'intensità, dalla frequenza, dal tempo di esposizione, dalle caratteristiche del tessuto, del materiale biologico. Diciamo che se sono dentro determinati questi aumenti di temperatura, dentro determinati range, non vi è sostanzialmente problema, perché il nostro organismo ha un procedimento, un meccanismo di termoregolazione, e quindi riesce, diciamo, a contrastare questo aumento di temperatura, un po' come quando andiamo all'aperto e ci mettiamo al sole, sentiamo che la nostra temperatura aumenta, però il nostro sistema circolatorio riesce a contrastarla. E si parla appunto di effetto biologico, perché comunque c'è una variazione a livello biologico. Se invece la termoregolazione non è sufficiente a contrastare questo aumento di temperatura, si ha un effetto sanitario, che può essere un effetto irreversibile, quindi un danno, un'ustione per capirci. Ecco perché le normative fissano dei limiti, sia per la popolazione sia per il lavoratore. E li fissano proprio su questo effetto termico. Gli effetti a lungo termine, spesso si parla di questi effetti per i campi elettromagnetici, cioè fanno bene, fanno male nel lungo termine, provocano tumori e via dicendo. Allo stato attuale non c'è ancora nessuna evidenza che dimostri che siano cancerogeni. Ci sono molti studi a riguardo, molti contrastanti anche tra di loro, quindi attualmente lo IARC e anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità li ha classificati, i campi elettromagnetici, non cancerogeni per quelli ad alta frequenza, mentre quelli a bassa frequenza, per capirci a frequenza industriale 50 Hz, sono stati classificati come agenti possibilmente cancerogeni, cioè c'è una piccola evidenza per la quale può essere credibile un aumento delle patologie. In particolare ci sono dei studi che mostrano che sotto i grossi elettrodotti aumentano, diciamo, le neoplasie infantili, la leucemia per capirci. Però vi ripeto, gli studi sono ancora in corso, anche perché come sapete sono a lungo termine e anche è difficile, diciamo, trovare la causa che ha sprigionato una determinata patologia. Come si dice, nel dubbio, gli CNIRP, cioè non sapendo se fanno bene o se fanno male, va utilizzato un ampio margine di cautela. Quindi limitiamoli il più possibile, teniamoli il più bassi possibile. Ed è il principio di cautela o di precauzione. Proprio perché, vi ripeto, non c'è ancora un'evidenza scientifica che dimostri né da una parte né dall'altra. Gli CNIRP infatti ha emesso ancora nel 1998 delle linee guida per limitare questi campi elettromagnetici, indicando anche dei margini di sicurezza, cioè un fattore almeno 10 per l'esposizione professionale, un fattore almeno da 20 a 50 per la popolazione. Ovviamente perché c'è questa differenza tra esposizione professionale, quindi del lavoratore, e della popolazione? Semplicemente perché il lavoratore professionale, quindi professionalmente esposto ai rischi dei campi elettromagnetici, è controllato, è una persona adulta, è informata, è consapevole dei rischi e sa anche come proteggersi, mentre la popolazione è composta da persone di tutte le età, in tutte le condizioni di salute e sono soprattutto inconsapevoli delle problematiche e non sanno quindi nemmeno proteggersi dai rischi. Nel 2004 la Comunità Europea ha emanato una direttiva proprio per i lavoratori e ha dato delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione di lavoratori ai campi, ai rischi derivati ai campi elettromagnetici. Ha fissato dei limiti di esposizione e dei valori di azione, un po' come tutto il gruppo delle direttive degli agenti fisici che molti di voi conosceranno, cioè direttiva vibrazioni, direttiva acustica. I valori, diciamo, limite di esposizione sono quelli che non devono mai essere superati in alcun caso, mentre i valori di azione sono appunto dei livelli di soglia pratici che se superati devono, si richiede, diciamo, un intervento attraverso sorveglianza sanitaria o piano d'azione per ridurre questa esposizione, per mitigarle, formazione al personale e via dicendo, cose che dopo comunque vedremo bene nel dettaglio. Una brevissima panoramica sulla legislazione italiana. A capo di tutte le leggi italiane quanto riguardano i campi elettromagnetici c'è la famosa legge quadro del 2001, che dà, diciamo, più che altro dei propositi, non fissa dei limiti, non fissa dei numeri, ma dà dei propositi, delle competenze e delle responsabilità. Poi c'è un filone applicabile alla popolazione, quindi i decreti dell'8 luglio del 2003, quello sopra per l'alta frequenza, quello sotto per gli elettrodotti. Per i lavoratori invece esiste il testo unico sulla sicurezza, quindi il decreto 81 del 2008. Il decreto appunto 81 del 2008, che alla fine è la sostituzione, diciamo, il proseguirsi del più famoso 626, ha aggiunto, ecco, rispetto al 626, nuove voci, quali appunto la protezione dei lavoratori dai rischi da campi elettromagnetici. Quindi prima nel 626 non c'era questa voce di valutazione, quindi del rischio da campi elettromagnetici. Nel testo unico è stata introdotta. In realtà il 626 parlava di valutare i rischi di tutti gli agenti fisici e i campi elettromagnetici sono degli agenti fisici, però non essendo esplicitamente nominati erano lasciati un po' lì non tanto considerati se non nelle applicazioni industriali nelle quali veramente era un agente fisico ben predominante, e quindi la RSPP diciamo diceva bene questi li valutiamo. C'è da dire in realtà che per un brevissimo periodo, un mese, questa valutazione di rischio a campi elettromagnetici era rientrata anche nella 626, perché nel 19 novembre del 2007 era uscito un decreto attuativo della normativa europea che vi ho fatto vedere prima ed è entrato in vigore il 30 aprile 2008. In poche parole andava ad aggiungere al 626 la valutazione dei rischi anche per i campi elettromagnetici, però è rimasto in vigore sino al 15 maggio 2008, dopodiché il 626 diciamo, è stato abrogato. Quindi c'è stato un po' di confusione in quel periodo anche negli enti normatori, di chi ha legiferato. Inoltre il 23 aprile del 2008 è stata emendata una direttiva che è andata europea, che è andata a correggere la direttiva di cui vi ho parlato prima, quella la direttiva europea sui campi elettromagnetici, la 2004/40, e l'ha spostata al 2012, però poi vedremo che non l'ha spostata interamente. Quindi diciamo i limiti che poi vedremo dei campi elettromagnetici in luoghi di lavoro entreranno in vigore, questo sì, il 30 aprile 2012. Però la valutazione dei rischi, ed è questa la cosa importante per la quale c'è molta confusione, la valutazione dei rischi da campi elettromagnetici va comunque fatta. Okay. Già adesso la valutazione dei rischi a campi elettromagnetici va fatta. In giro si sente dire no, va fatto tutto nel 2012, non è così. Solo rispetto dei limiti e tutte le prescrizioni della direttiva saranno applicate dal 2012, ma già da adesso la valutazione dei rischi deve essere fatta. Quindi ecco, il datore di lavoro ha l'obbligo di introdurre nel DVR anche i rischi specifici per i campi elettromagnetici, e chi non fa questa valutazione di rischi è inadempiente. Quando parliamo di rischi, ovviamente in questo caso stiamo parlando di rischio professionale, il testo unico vale solo nell'ambiente professionale, o meglio a tutela del lavoratore, quindi negli ambiti anche lavorativi e anche al di fuori dell'azienda, non vale per la popolazione. Quindi stiamo parlando del rischio non generico per il quale diciamo tutte le persone hanno un'eventualità di rischio in egual misura, ma un rischio diciamo che può essere o generico aggravato o rischio specifico, che sono i due rischi che sono considerati rischi professionali. Vi faccio un esempio: tutta la popolazione è a rischio generico di essere investita da campi elettromagnetici generati da elettrodotti, o essere in prossimità di una cabina di trasformazione che magari è a 100-200 metri dalle abitazioni. Il rischio generico aggravato è il fatto di essere nell'ambiente di lavoro con la cabina di trasformazione, magari quella da media tensione, bassa tensione, vicinissima, a pochi metri. Quello è lo stesso rischio che abbiamo come popolazione, però aggravato perché ci siamo più vicini. Il rischio specifico invece è proprio legato all'attività che stiamo svolgendo, quindi chi fa manutenzione nelle antenne, chi fa manutenzione in elettriche, chi salda, chi usa forni a induzione e via dicendo. Andiamo un po' più veloci in questo. Vi dicevo, il testo unico nella parte diciamo degli agenti fisici ha introdotto appunto i campi elettromagnetici, che come tutti gli agenti fisici deve essere valutato con cadenza almeno quadriennale. Cadenza almeno quadriennale è l'indicazione che il testo unico dà per tutti gli agenti fisici, quindi anche per i campi elettromagnetici. In realtà, diciamo, la valutazione del rischio deve essere aggiornata non ogni 4 anni, ma ogni qualvolta ci siano dei mutamenti delle attrezzature, delle procedure di lavoro, dei tempi di esecuzione di un determinato lavoro, o anche semplicemente di uno spostamento, una variazione del layout nell'azienda. Quindi ogni qualvolta si ha una variazione dell'emissione del campo elettromagnetico, va rifatta, va aggiornata la valutazione dei rischi. Se rimane invece tutto immutato, fermo, deve essere fatto ogni 4 anni. Il testo unico parla appunto anche questo per tutti i rischi che ci sono in azienda, parla della cosiddetta cartellonistica, della segnaletica. La segnaletica che serve a dare informazione ai lavoratori. Voi sapete c'è una netta differenza tra informazione e formazione che si dà al lavoratore. La formazione è un qualcosa, diciamo, è un addestramento che si dà al lavoratore professionalmente esposto, lo si addestra ad eseguire determinati lavori, l'utilizzo di particolari apparati e via dicendo. L'informazione è un qualcosa invece di più generico che può essere dato a tutti i lavoratori per metterlo al corrente di determinati rischi, senza andare nel dettaglio della tipologia del rischio. Tra queste, diciamo, segnaletiche che danno informazione, troviamo appunto queste più diffuse, nelle quali riconosciamo bene quelle appunto specifiche per il campo magnetico, quelle specifiche per i campi ad alta frequenza, in prevalenza campi elettrici. E poi tutti i segnali di divieto, nei quali appunto quando siamo in prossimità di ambienti lavorativi che hanno dei forti campi magnetici, soprattutto statici, è vietato ad esempio utilizzare, diciamo, oggetti metallici, utilizzare orologi o accedere se abbiamo delle protesi, perché c'è il cosiddetto rischio di propulsione, e questo vale per i campi magnetici statici. Per tutti gli altri campi elettrici e magnetici ci può essere un problema di interferenza con dispositivi, ad esempio anche dispositivi medici impiantabili, che, come abbiamo visto prima dalla presentazione del collega Stellini, i dispositivi medici impiantabili sono realizzati sicuramente con un livello di immunità adeguato, però con determinati limiti. Un ambiente fortemente disturbante, quel livello di immunità potrebbe non bastare. E quindi il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve valutare anche questa cosa qui. Cioè, se ha del personale, dei lavoratori che hanno quei dispositivi medici, deve fare una valutazione ad hoc per quei casi. Come vi dicevo prima, il campo di applicazione è quello delle radiazioni NIR, le radiazioni non ionizzanti, cioè da 0 Hz a 300 GHz, che troviamo comunque tutte le frequenze qui dentro utilizzate negli ambienti di lavoro. E vanno a vedere, cosa importante da dire, vanno a vedere se vengono rispettati i limiti, quelli che entreranno poi in vigore nel 2012, limiti che danno che cosa? Che danno quell'effetto termico di cui vi parlavo prima, quindi un effetto nocivo a breve termine. Quindi non, il testo unico non parla degli effetti ipotetici, diciamo, ancora allo studio a lungo termine, quindi solo quelli termici in buona sostanza, e poi quelli collaterali legati ad esempio alla propulsione di pezzi metallici, come discutevo prima. Ecco, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli di campo elettromagnetico ai quali sono esposti i lavoratori. Quindi viene detta questa importante frase che il datore di lavoro, ovviamente chi per lui, deve fare una valutazione del rischio. Se lo ritiene necessario, lo misura oppure lo calcola con dei software, con dei simulatori, lo può anche calcolare. Ovviamente conforme alle norme di buona tecnica. Le norme di buona tecnica, che come sapete sono quelle del CEI, in particolare la CEI 211-6 per la bassa frequenza e la CEI 211-7 per l'alta frequenza. Vi accennavo già prima che nell'ambito della valutazione del rischio il datore di lavoro deve prestare anche particolare attenzione agli effetti collaterali di campi elettromagnetici. Quindi lo scopo primario è quello di vedere gli effetti immediati, gli effetti acuti, quelli termici, però poi ci sono i problemi, diciamo, adesso collegati, cioè tutti gli effetti indiretti, quali interferenza con attrezzature, dispositivi medici elettronici, rischio propulsivo, e questo è indicato appunto di valutarlo soprattutto quando si hanno campi magnetici statici, 0 Hz, con induzione magnetica superiore ai 3 millitesla, e poi anche la possibilità di innesco di incendi o di esplosioni che possono attivarsi proprio perché ci sono delle scintille create da campi indotti, quindi cariche elettrostatiche indotte e via dicendo, cosa che diventa molto importante in quegli ambienti classificati a maggior rischio di esplosione, gli ambienti APEX. Ecco, quando i valori di azione che dopo vedremo, prima vi accennavo, ci sono due livelli da controllare, due valori, uno è il livello di esposizione e uno è il livello di azione. Quando il livello di azione è superato, il datore di lavoro deve elaborare un programma d'azione per rimediare, diciamo, a questo superamento, tenendo conto in particolare quei punti lì elencati, cioè può indagare su dei metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici. Banalmente, se ho due macchinari vicini tra di loro, faccio una misura in mezzo con strumenti di questo tipo, che dopo il mio collega vi mostrerà, faccio una misura, è un superamento dei valori di azione quando entrambi i macchinari sono in funzione, posso decidere di farli funzionare uno alla volta. Diventa una procedura di lavoro che posso adottare all'interno dell'area produttiva, okay? Ovviamente facendo formazione al personale. Posso ridurre l'emissione mediante mascherature elettriche, magnetiche o elettromagnetiche, che non sempre si tratta di mettere del materiale conduttore o ferromagnetico attorno al dispositivo, alle volte si tratta di andare ad operare nelle frequenze, andare ad operare nelle ampiezze o anche nella disposizione stessa dei cavi. Oppure addirittura limitare la durata e l'intensità dell'esposizione. Se ho un macchinario, che ne so, di radiofrequenza per fondere la plastica, per cucire quindi materia plastica a 27 MHz, non a caso una frequenza molto utilizzata perché è una banda libera, come i 2-4 giga ISM. Ho un macchinario quindi di questo tipo che mi dà un superamento dei limiti quando c'è la saldatura, posso decidere di non utilizzarlo al 100% della sua potenza. Posso limitarlo all'80%, al 70%, ovviamente compatibile poi con l'esito che mi serve della lavorazione. Ovviamente anche qui formando l'operatore o facendo delle modifiche, quindi dei blocchi, dei limiti sul macchinario. Basta comunque anche la formazione e il lavoratore, diciamo, formato è l'unico che può accedere a quel macchinario. È, diciamo, il lavoratore autorizzato. Ecco, in nessun caso comunque i lavoratori devono essere esposti ai valori superiori ai limiti di esposizione. Okay? Non possiamo avere mai un superamento dei limiti di esposizione. Ecco, questi sono i valori limite di esposizione che sono messi, sono indicati nel testo unico. Come vedete vanno in base alla frequenza. C'è una suddivisione delle frequenze da 0 Hz appunto a 300 GHz. Questi valori di esposizione richiamano delle grandezze fisiche che sono difficilmente misurabili, come la densità di corrente tra corpo e tronco, il tasso di assorbimento specifico, il SAR, che si misura in watt su chilogrammi, o la densità di potenza, watt su metro quadrato. Questi sono difficili da misurare. Quindi si fa riferimento che i valori di esposizione ai valori d'azione, che sono anche chiamati descrittori del rischio. I valori d'azione, comunque, quando sono rispettati, sicuramente danno la certezza che siano rispettati anche i valori di esposizione. Quindi misuro questi con gli strumenti che vedete qui. Se il test è positivo per questi, sono a posto anche con i valori di esposizione. E anche qui vedete appunto la suddivisione in frequenza e i valori di intensità di campo elettrico, magnetico, induzione magnetica e via dicendo, che sono molto più facilmente misurabili con la strumentazione. Qui semplicemente è riportata un paragone tra i valori di attenzione che vi ho appena mostrato e i valori invece che esistono per i lavoratori, per la popolazione, perché c'è un fattore di sicurezza maggiore, come vi ho mostrato nell'introduzione di questo intervento. Vedete ad esempio che il testo unico per i lavoratori alla frequenza di 50 Hz permette di arrivare sino a 500 microtesla, mentre per la popolazione il limite di esposizione da non superare mai è di 100 microtesla, un quinto, o addirittura il valore di attenzione 10 microtesla, quindi siamo ben sotto al valore, diciamo, applicato alla lavoratore. 10 microtesla per la popolazione contro i 500 per il lavoratore. Valore di attenzione è quello che si va a vedere dove si ha una permanenza, dove la popolazione ha una permanenza superiore alle 4 ore. Nei nuovi edifici o nei nuovi elettrodotti che passano vicino a aree abitate si va a vedere addirittura l'obiettivo di qualità, che è un valore ancora più restrittivo, 3 microtesla, okay? Contro appunto i 10 che si possono avere dove la situazione era già preesistente prima dell'entrata in vigore del decreto del 2003. Quindi, riepilogando, le disposizioni del testo unico per la parte di valutazione di campi elettromagnetici entreranno pienamente in vigore il 30 aprile 2012, anche se già da adesso, vi ripeto per una volta, c'è l'obbligo comunque della valutazione del rischio. Comunque quando entreranno in vigore ci saranno forti problemi, perché il 2012 è solo fra meno di 3 anni. Nel frattempo bisogna adeguare gli impianti, le attrezzature, schermarle, cioè non possiamo aspettare l'11 aprile del 2012 per fare la misura o per fare la valutazione del rischio e poi sperare in una giornata di ridurre tutta conformità, perché possono appunto... L'adeguamento può richiedere delle operazioni anche molto costose in termini di tempo, ma anche in termini economici. Quindi vedere come schermare, come cambiare i cicli, i turni di lavorazione, come vi ho fatto l'esempio prima, come riposizionare il layout delle macchine operatrici, come definire appunto le aree di rispetto, cioè le distanze da quel determinato macchinario, quindi inibire l'accesso dentro particolari aree. Allo stato attuale ci sono anche un po' di complicazioni riguardo queste valutazioni, perché non esistono ancora delle linee guida chiare e univoche da dare, diciamo, in mano all'RSPP per fare queste valutazioni. In più i parametri in gioco sono difficili da misurare, gli stessi strumenti sono di difficile utilizzo. Un utilizzo sommario di uno strumento, ad esempio di questo tipo, come vi dirà poi mio collega, vi porta a misure completamente errate, quindi si richiede appunto un personale qualificato, il risanamento, come abbiamo visto prima, può essere complesso, in più c'è molta disinformazione sui possibili rischi di campi elettromagnetici, quindi bisogna operare molto con un adeguamento culturale del lavoratore, cosa tra l'altro obbligatoria, perché come sapete il testo unico obbliga i datori di lavoro a fare formazione / informazione al lavoratore riguardo i rischi che ha in azienda, e quindi tra questi anche i campi elettromagnetici. Qui un piccolo esempio di un risanamento, quindi classica azienda che ha al piano terra la parte produttiva, quindi cabina di trasformazione, trasformatori, macchine utensili, e sopra la parte uffici. Si può trovare un superamento di valori negli uffici, tra l'altro dove c'è un personale, un lavoratore che non è professionalmente esposto. Okay? Può essere la segretaria che ha il computer, quindi professionalmente non è esposta all'utilizzo di quei macchinari. In quel caso si possono fare appunto dei risanamenti mettendo, diciamo, nel pavimento degli schermi ferromagnetici o anche dei schermi conduttori. Il primo, diciamo, va a bloccare sia la componente di campo elettrico sia di campo magnetico e quindi è più efficace. Il secondo va a bloccare la sola componente di campo elettrico. In realtà va a mitigare anche una parte del campo magnetico, perché si creano delle correnti indotte, le correnti amperiane sullo schermo stesso, che sono per la legge di Lenz uguali e opposte a chi le ha create, quindi si oppongono. Ovviamente la cosa non va fatta a caso, ma va studiata, va calibrata, progettata per ogni situazione, per ogni tipologia di frequenza, per ogni valore di intensità. Alle volte può essere anche necessario, o può anche solo bastare, una riduzione del campo ottenuta mediante un arrangiamento delle fasi, cioè si va ad esempio a diminuire i loop creati nei percorsi di corrente, si avvicinano i conduttori, o si va a giocare proprio sulla disposizione delle fasi, e anche in questo caso c'è una riduzione drastica del campo elettromagnetico. Ora vi parlerò negli ultimi minuti della valutazione, diciamo, del campo elettromagnetico più che altro per la popolazione. Quanto vi ho mostrato adesso è per il lavoratore, quindi vi ho mostrato il testo unico che vi ripeto si applica solo per i lavoratori. Adesso invece vi mostrerò la valutazione dell'impatto elettromagnetico ambientale per la popolazione. Devo andare per forza di cose veloce, perché gli argomenti sono tanti, ma l'obiettivo è quello di passarvi, diciamo, le tematiche di base, quali sono le problematiche e sapere cosa si può fare per queste problematiche. Vi parlerò in particolare per gli elettrodotti della verifica delle fasce di rispetto. Prima vi ho nominato la legislazione per la popolazione. Nel caso delle radiofrequenze, quindi le frequenze che vanno da 100 kHz a 300 GHz, si fa riferimento a quel DPCM, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2003, che ha fissato dei limiti di esposizione che, come vi ricordo, sono limiti che non vanno mai superati, valori di attenzione che sono applicabili nelle aree nelle quali si ha una permanenza superiore alle 4 ore, quindi gli ambienti abitativi, e poi l'obiettivo di qualità, che è l'obiettivo, diciamo, da applicare alle aree all'aperto, luoghi intensamente frequentati, quindi, per farvi un esempio, ai parchi giochi, nei quali magari stiamo anche meno di 4 ore, però gli applichiamo comunque l'obiettivo di qualità. Una cosa, diciamo, che ci dà un po' di vanto a livello nazionale è che rispetto ai limiti indicati dall'ICNIRP, quindi quei limiti nazionali, l'Italia li ha fissati ancora più drastici, ancora con valori molto più bassi, quindi con un grado di sicurezza più elevato. Quindi vedete, in Europa erano stati indicati quei valori lì tratteggiati, in Italia sono stati applicati valori molto molto più bassi. Questo è il valore limite di esposizione, questo è il valore di attenzione, 6 volte su metro, quindi da applicare dove stiamo più di 4 ore, se viene detta permanenza prolungata, e poi l'obiettivo di qualità, che è ancora 6 volte su metro. Qui vado un po' veloce, mi interessa solo dirvi che una sentenza nel 2003 ha ribadito la supremazia dei comuni nella decisione inerente alla gestione urbanistica del territorio, per individuare ad esempio quali sono i siti più idonei ad ospitare nuovi impianti per telefonia mobile. Voi sapete, c'è stato un periodo transitorio con il decreto Gasparri che lasciava, diciamo, all'operatore un po' la scelta ottimale del posto dove dislocare l'antenna. Mentre la Corte Costituzionale ha ribadito che è il comune che può occuparsi di questa cosa, ovviamente in maniera ben organizzata, ben pianificata. Questo fa sì che i campi elettromagnetici possono essere, appunto, come vedete, simulati, oltre che misurati, come vedete dopo, simulati ai fini proprio della realizzazione di un piano antenne, quindi l'individuazione di zone calde o di zone, diciamo, che nelle quali i livelli di campo sono più bassi e quindi si possono ospitare nuovi impianti. O addirittura con i software di simulazione si possono fare dei calcoli previsionali, cioè calcolare quali saranno i livelli di campo elettromagnetici dopo l'installazione di una nuova antenna. Per quanto riguarda invece gli ELF, cioè la frequenza estremamente bassa, i 50 Hz, si fa riferimento a un decreto sempre del 2003, uscito nella stessa data del decreto per l'alta frequenza, e qui i limiti di esposizione, di attenzione e di qualità, eccoli qua, sono di 100 microtesla, 10 microtesla e 3 microtesla, quelli che avevo accennato già prima. E dice il decreto che quando si va a costruire, a recuperare edifici in prossimità di linee elettriche ad alta tensione, si va a fare una valutazione di quelli che sono anche qui i rischi dei campi elettromagnetici. In particolare si va a vedere se viene rispettato il cosiddetto obiettivo di qualità, i 3 microtesla. Quindi nella progettazione di nuovi edifici, così come nel restauro, nel recupero di quelli esistenti, al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie, è necessaria una valutazione preventiva del livello di induzione magnetica che certifichi il rispetto di questi 3 microtesla. È una cosa molto importante. C'è stato un po' anche qui a livello normativo e legislativo, più che altro, un po' di confusione, perché nella regione Veneto era in vigore la legge regionale 27 del 93, che alcuni di voi conosceranno, che è stata, diciamo, dichiarata sempre dalla Corte Costituzionale nel 99 e poi ribadito dal Consiglio di Stato nel 2008, diciamo non prevalente rispetto alle leggi nazionali. Okay? Quindi dopo, diciamo, il Consiglio di Stato è stato ben chiaro che si fa riferimento alla legge nazionale. Per la legge nazionale si fa riferimento quindi al decreto 2003 che vi ho indicato prima, e in più a questi due recenti decreti usciti nel maggio del 2008, che approvano, diciamo, la metodologia di calcolo per determinare le fasce di rispetto degli elettrodotti, e in più approvano delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica. Questo fa sì che abbiamo due strade per valutare questa osservanza degli obiettivi di qualità, i 3 microtesla. Quindi devo edificare un nuovo edificio sotto un elettrodotto, l'edificio deve essere realizzato in luoghi dove siano rispettati i 3 microtesla, cosa posso fare? Posso fare la misura e farò riferimento a questo decreto, o posso fare anche un calcolo. Eccolo qui. Quindi vado a calcolare le fasce di rispetto degli elettrodotti, che è, diciamo, la cosa sicuramente più snella. Perché? Perché se io vado a fare una misura sotto un campo sotto un elettrodotto, il campo elettrico sarà sempre costante a qualsiasi orario, perché dipende dalla tensione di linea, mentre il campo magnetico dipende dalle correnti, dalla portata in movimento del traliccio. Quindi dovrei farmi dare dal gestore della linea e gli assorbimenti di linea, cioè chiedere se al determinato orario della giornata in cui ho fatto la misura c'era un valore determinato di corrente. Procedura molto lunga e molto difficile. È molto più facile ottenere invece dai gestori delle reti elettriche le correnti, diciamo, nominali della linea, con le quali è possibile fare appunto il calcolo delle fasce di rispetto. Quindi vedete appunto un semplice calcolo lì sotto del campo elettrico, che vi ripeto rimane costante per l'elettrodotto, perché dipende dalla tensione di linea, poi ovviamente dalle geometrie, e per il campo magnetico invece dipende dalla corrente che è transitante in quel momento. Il decreto che ho nominato prima, quello recente del maggio 2008, dice come deve essere fatta la metodologia di calcolo, cioè dice come deve essere fatto il software che calcola queste fasce di rispetto. In particolare ci dice come calcolare la cosiddetta distanza di prima approssimazione. Che cos'è la distanza di prima approssimazione? Allora, se questo è un elettrodotto, si va a calcolare la curva, diciamo, del campo magnetico a 3 microtesla, e si va a proiettare sulla normale del terreno questa curva. Fuori da questa proiezione si può costruire il nuovo edificio, okay? Perché si ha la certezza che lì non ci sia valore superamento di 3 microtesla, cioè dell'obiettivo di qualità. Quindi si fa un calcolo di questa curva di 3 microtesla e si va a vedere la proiezione. Eccolo qui. Quindi questo è un calcolo di una linea aerea a doppia terna, 132 kV, e si va a vedere appunto la proiezione, la distanza di prima approssimazione. Se ricadono degli edifici qui dentro, ci può essere appunto superamento di 3 microtesla. La stessa simulazione può essere fatta anche su un piano verticale. In realtà possiamo avere delle situazioni, come in questo caso, nel quale la proiezione di 3 microtesla ricade, fa sì che dentro la distanza di prima approssimazione ci sia l'edificio, però nella realtà l'edificio non va a toccare i 3 microtesla, che sono confinati dentro questo cerchio, come vedete. In questo caso è possibile edificare, però che differenza c'è rispetto alla proiezione di prima? Che qui devo sapere con esattezza, ad esempio, l'altezza delle linee, calcolare anche la campata, cioè quanto le linee si abbassano tra un traliccio e l'altro, mentre nel caso di prima posso anche mettere questo calcolo a qualsiasi altezza, la proiezione nel terreno sarà sempre quella. Quindi anche qui dipende da quanti dati abbiamo a disposizione. Ecco che alla fine quello che possiamo ottenere attorno a una linea elettrica sono proprio queste curve di proiezione, soprattutto quella 3 microtesla, che ci dice qual è la distanza di rispetto. Anni fa, concludendo, esisteva una legge regionale che fissava delle distanze in funzione alla tensione di esercizio della linea elettrica. Queste distanze ora non ci sono più. Non c'è quindi una misura entro la quale si può edificare o meno, bisogna fare la valutazione del rispetto di questi 3 microtesla, che è l'obiettivo di qualità. Con questo ho concluso, se poi ci sono domande... Bene, buonasera a tutti. So di essere già di partire già con ritardo, quindi vi prometto che provo a finire entro il termine previsto. Magari mi scuso in anticipo se alcune slide le salto direttamente e magari lascio più spazio poi a domande e eccetera. Raccolgo il testimone fornitomi dal mio collega e vado un po' a chiudere questa serata, che vuole essere divulgativa, non vuole insegnarvi né a fare le misure né a come si usano gli strumenti eccetera, però vuole introdurre una problematica. Allora, chiudendo un po' il filo logico, abbiamo visto come le problematiche MC sono estremamente presenti in maniera trasversale in tutti gli ambienti, quindi dal residenziale all'industriale e al pubblico, all'ospedaliero, e sono anche molto subdole, l'abbiamo visto prima con la presentazione dell'ingegner Stellini. E abbiamo visto con la presentazione di Dainese come la normativa attualmente in vigore ci imponga anche certi tipi di valutazioni e certi tipi di accorgimenti atti a ridurre conformità a certe situazioni, e qui andiamo a chiudere vedendo che cosa abbiamo a disposizione per fare questo tipo di valutazioni e riduzioni a conformità. Allora, carrellata velocissima su quelle che sono le principali sorgenti di questi fenomeni che abbiamo visto descritti fino adesso, quindi ovviamente ce n'è un'infinità, io mi soffermerò su quelle più tipiche e quelle ad oggi più comuni. Sappiamo tutti che i campi elettromagnetici si basano su frequenze irradiate, come abbiamo visto prima, lo spettro è veramente ampio e all'interno di questo spettro le sorgenti sono molteplici. Quindi il primo concetto che vorrei passarvi è che, essendo una risorsa limitata, per trasmettere delle informazioni dobbiamo andare a occupare delle porzioni di banda, e queste porzioni di banda non sono infinite ovviamente, quindi dobbiamo necessariamente trovare delle tecniche per poter trasmettere più informazioni utilizzando una risorsa che non è infinita, e quindi da qui nascono tutte le comunicazioni digitali che poi andremo a vedere. Una di queste tecniche che è stata utilizzata, come per esempio nel GSM, è spartire, diciamo così, la risorsa temporale, e quindi per chi di voi del settore delle telecomunicazioni il famoso TDMA, che dopo andremo anche a vedere con l'analizzatore di spettro. Un'altra tecnica che si è sviluppata con la più recente terza generazione, quindi l'UMTS, è una divisione nel dominio dei codici, una divisione a codice, quindi dove il segnale di per sé è a più larga banda, però viene codificata la comunicazione, e quindi tutte le comunicazioni si sovrappongono come in un panettone sostanzialmente, e ciascuna comunicazione la vedete in colori diversi proprio perché è decifrabile solamente dall'utente interessato, dal ricevitore interessato. È come se in una stanza, come potremmo essere noi questa sera, a coppie di due, come si dice, parlassimo lingue diverse, e quindi io sapessi solamente la lingua che parla il mio diretto interlocutore e non capissi assolutamente niente degli altri codici. Questo significa la suddivisione a codifica. Ovviamente, come vedete lì, è indicato il rumore di fondo, questo ha un limite, non è se tutti adesso cominciassimo a parlare o a urlare, il livello di rumore, proprio a livello acustico, salirebbe così tanto che anche la decodifica sarebbe impossibile, quindi ovviamente anche qui abbiamo una risorsa non infinita. Ecco, questo è quello che succede a livello intuitivo, tutte le comunicazioni viaggiano sovrapposte, ed era quel panettone che vedete prima, ma in decodifica solo il ricevitore interessato riceve la l'informazione a lui destinata. Ecco, qui abbiamo un rapido riassunto di queste tecniche che ci permettono di utilizzare la risorsa non infinita spettro in maniera da poter trasmettere flussi sempre più ampi di informazioni, e andiamo velocissimamente in carrellata a ripassare quelli che sono i segnali principali che possiamo trovarci in una tipica misura ambientale. Partiamo da, vediamo in ordine cronologico, partiamo dal vecchio segnale AM radiofonico, per andare poi all'FM, che sono tutti e due segnali analogici e si contrappongono ovviamente sia come spettro ma anche come occupazione di banda e anche come tipologia di irraggiamento nell'ambiente, sono completamente diversi rispetto ai segnali digitali. Poi andremo a vederli in diretta sul analizzatore di spettro. Come vedete, il segnale radiofonico è un segnale a banda stretta, ha una larghezza di banda di 200 kHz ed è a modulazione di frequenza, cioè l'informazione viene passata attraverso una modulazione della frequenza. Ecco, la prima cosa che vorrei passarvi è questa come concetto. Un segnale FM, se noi lo andiamo a analizzare nel settore di spettro, lo troviamo sempre a una potenza costante, quindi non ha assolutamente quello che si chiama nella telefonia GSM, non ha il controllo della potenza, il famoso TPC, e questo lo vedremo in diretta dopo. Il segnale PAL televisivo, la vecchia televisione che ormai deve essere sostituito dal digitale, è un segnale che già vedete qui, anche a occhio nudo si vede che è sicuramente uno spettro molto più ampio rispetto al segnale FM che abbiamo visto prima, perché all'interno di questa banda devono essere trasmesse non solo la voce, come magari è nella radio, ma anche il colore e il suono. Ecco, una tabella, vediamo un po' dove si mettono in relazione queste tipologie di sorgenti all'impatto che possono avere nell'ambiente. Guardiamo una per esempio, la media frequenza, che ha una lunghezza che può andare da 1 km fino a 100 metri, ossia il trasmettitore radio in AM, vedete, può avere un impatto di campo elettrico nell'ambiente che può andare da 1 fino a 25 volt su metro. Ora adesso tutte queste informazioni che io vi sto dando, mi scuso, ma in maniera così veloce, magari metteteli in relazione anche con i limiti che sono stati prima esposti dal mio collega da Inizio. Fino ad arrivare all'UHF, dove vedete possiamo arrivare quasi fino a 50 volt su metro di campo elettrico irradiato. Ecco, vedete per esempio l'entità del campo elettrico di un'antenna radio TV, che sia essa AM, FM, UHF o VHF, a 5 metri di distanza. Queste sono antenne che possono avere potenze effettivamente irradiate dell'ordine dei 100 kW. Ecco, vedete che se noi sostiamo a una distanza di 5 metri da questo impianto possiamo essere esposti a valori veramente importanti, quindi fino a 346 volt su metro. È per questo, e questo è il motivo per cui le antenne di questo tipo, per queste tecnologie, sono spesso poste sui colli e in posizioni lontane dal centro abitato. Non sempre, perché in alcune realtà metropolitane entrano pesantemente anche nel territorio urbano questo tipo di impianti. Sistema cellulare ha introdotto il riutilizzo delle frequenze proprio per ottimizzare la risorsa spettro, e andiamo subito a vedere anche qui come un impianto fino ai 3 giga, per esempio, una stazione radiobase GSM o DCS che sia, quindi dual band sui 900 e sui 1800, vedete come si riducono drasticamente i valori di campo elettrico irradiato rispetto a quelli che abbiamo visto prima di un impianto televisivo o radiofonico. È chiaro, mi direte voi, le frequenze sono più alte, quindi il contenuto energetico è maggiore, sì, è vero, però se facciamo riferimento alle normative, sicuramente i valori di campo sono nettamente inferiori. Eccola qua, vedete, anche qui ovviamente, come tutte le grandezze fisiche di cui stiamo parlando questa sera, sia il campo elettrico che il campo magnetico hanno una curva di decadimento a seconda della distanza, e quindi il motivo è spiegato in quella tabella. A 5 metri abbiamo dei valori decisamente più alti, per poi andare già a 500 metri dall'impianto, in cui troviamo valori di 0,3 volt su metro. Apro una parentesi, strumenti tipo questo, che forse qualcuno è nascosto ma dopo lo vedremo, banda larga, 0,3 volt su metro, siamo vicini alla sensibilità dello strumento, quindi sotto questo valore, che è 0,3 volt su metro, lo strumento non rivela alcun campo. Quindi, per darvi un'idea di quanto sia basso il valore 0,3 volt su metro. Ecco, il segnale GSM è, che abbiamo visto prima, introduce la tecnica TDMA, si spartisce praticamente 174 portanti in 35 MHz. Nella banda dell'uplink, ossia dal nostro telefono verso la stazione radiobase, e 174 portanti nella banda in downlink dalla stazione radiobase verso il nostro telefono. La distanza in frequenza tra queste portanti è di 200 kHz. Eccole, questa è una schermata di un analizzatore di spettro, comunque poi l'abbiamo qua in live e quindi vale la pena vederlo live. L'ultima generazione, la terza, ha una tecnica, come abbiamo visto prima, completamente diversa di utilizzo della risorsa spettro e lavora a divisione di codice. Ecco, questo significa che noi ci troveremo segnali, come vedete, molto più spalmati sullo spettro e in particolare hanno una frequenza di uno span, scusate, di 5 MHz e tutte le comunicazioni vanno a disporsi sovrapposte, come abbiamo visto prima. E quindi più utenti ci sono all'interno della cella e più questo panettone cresce. Ultima novità, ormai già superata anche questa, ma comunque adesso se ne sente molto parlare, è il DVB, ossia Digital Video Broadcasting. Anche questa cosa permette? Sostanzialmente permette di trasferire sempre maggiori informazioni, sempre maggior flusso dati. Andiamo a vedere anche questa dal punto di vista dello spettro in frequenza e vedete subito, la cosa appare evidente, come una comunicazione digitale, che è questo primo settore che vedete, abbia uno spettro molto più esteso in banda rispetto al vecchio segnale televisivo PAL in cui si possono individuare i singoli picchi. Quindi questa è la prima cosa che vorrei passarvi come concetto importante quando si vanno a fare delle misure, cioè saper subito individuare già in un batter d'occhio che tipo di sorgente con cui abbiamo a che fare, insomma, quindi se è digitale o se è analogico. Ecco, il grosso vantaggio quando ci si sposta sulle tecnologie digitali è che si ha bisogno di meno potenza per trasferire lo stesso tipo di informazione dell'analogico, quindi anche qui riduciamo le emissioni di, andiamo a 1 kW rispetto ai 5 kW che abbiamo visto prima, quindi abbiamo un risparmio energetico delle risorse e con una rete televisiva digitale possiamo trasmettere 4 o più canali. Andiamo, ci spostiamo velocemente nella banda libera, cioè quella ISM che è stata prima citata dal collega. Qui troviamo di tutto, quindi il Bluetooth, il Wi-Fi, l'Hyperlan, tutte le comunicazioni o qualsiasi cosa uno si possa inventare a radiofrequenza attualmente va e si butta nella banda libera. E quindi questa è una banda veramente inflazionata da un sacco di sorgenti. Bluetooth, sapete, esistono tre classi di potenze differenti. La classe 1 lavora sui 100 mW, la 2 sui 2,5 mW e la 3 su 1 mW. Ecco, vediamo anche qua, per completezza di informazione, l'impatto ambientale che può avere una tecnologia Bluetooth e vedete indicato anche in questo caso il SAR, quella grandezza che diceva prima mio collega, è molto difficile da misurare e infatti per valutare queste esposizioni si usa di solito un fantoccio sostanzialmente che ricalca un po' la composizione della massa corporea di un organismo biologico che per il 70% è più composto d'acqua, alla fine sono soluzioni fisiologiche, quindi si usano fantocci di questo tipo per andare a misurare poi con sonde invasive sul fantoccio il SAR. Andiamo alla tecnologia che tutti ormai conosciamo, il famigerato Wi-Fi, ossia il protocollo 802.11bg e aggiungo io N che è stato approvato da poco, a settembre, proprio a metà settembre 2009, e quindi questa è la panoramica che ci si prospetta a livello spettrale. Vediamo dei canali anche qui molto larghi rispetto alla banda FM che abbiamo visto prima, abbiamo dei canali di 22 MHz ciascuno, proprio perché all'interno di questi canali bisogna trasmettere informazioni e flussi dati. Sul 2.4, sul 2.4 giga in Italia possiamo utilizzare fino al canale 13 e l'ultimo va lasciato libero, e se utilizziamo queste tecnologie per trasmissioni in luoghi privati, cioè di proprietà del medesimo della medesima persona e senza fornire servizi al pubblico, non c'è bisogno di alcuna autorizzazione. Se invece andiamo a fornire servizi al pubblico occorre notificarsi presso il Ministero delle Comunicazioni. Il 2.4 è segnale lato utente, quindi quello che si riceve col PC, col nostro wireless, col telefonino, con l'iPhone, con tutti i telefoni che possono implementare la tecnologia Wi-Fi. Per trasferire, cioè per creare le dorsali, si utilizza la tecnologia Hyperlan, quindi rimaniamo sempre nel protocollo 802.11, ma stiamo nell'H, che sta appunto indica Hyperlan. Qui si lavora a 5 GHz, abbiamo una spaziatura di canali di 20 MHz e abbiamo a disposizione più canali rispetto al Wi-Fi. Corro. Anche qui, l'impatto elettromagnetico ambientale del Wi-Fi, di un'antenna Wi-Fi 2.4 GHz, vedete come a 5 metri dall'antenna siamo già a livelli prossimi alla sensibilità dello strumento che vi dicevo prima. Quindi questo vi indica la distanza magari a cui posizionare un access point in casa, per esempio. Magari fugando un po' anche i dubbi che sono stati insinuati da alcune magari trasmissioni o altro, in cui mi ricordo quello della Francia, in cui non mandate i vostri figli a scuola perché ci sono gli access point, eccetera, eccetera. Allora, io come sostengo sempre, è sempre meglio conoscere il problema e poi analizzarlo piuttosto che creare panico senza motivo. Qui ci sono elenco di sorgenti di uso comune domestico e vedete che magari alcune che non tutti, che tutti diciamo usiamo, diamo per scontato, in realtà hanno valori di radiazione significativi e li teniamo magari sul viso, magari provate a pensare a una parrucchiera che utilizza 8 ore al giorno il phone e capite come l'entità del problema sia significativa. Carrellata di sorgenti. Adesso andiamo a vedere come in questo panorama veramente complesso, che cosa abbiamo a disposizione per fare le analisi e trarne le conclusioni. Allora, qui abbiamo due esempi questa sera di strumentazione. Come avete visto prima, il decreto non impone di fare misure, però sostengo io, e allora come facciamo senza fare misure? Difficile, cioè sono grandezze veramente difficili, al di là dei 50 Hz dove abbiamo degli strumenti di calcolo, fare dei calcoli sulla propagazione in presenza di tutte queste sorgenti ad alta frequenza è veramente difficile. Allora, secondo me la misura comincia ad avere un senso. Sono misure complesse e la tecnologia ci propone due tipologie, due settori. Allora, uno, diciamo low cost, diciamo così, banda larga, adesso lo metto magari più comune, molti di voi sicuramente l'hanno vista, strumentazione di questo tipo, è una strumentazione facile da utilizzare, veloce, e ecco, al suo interno, come vedete lì, ha un sistema di sonde che realizzano un volume di sensibilità isotropo, perché non sappiamo noi la sorgente dove è posizionata, anche perché se ci troviamo in un ambiente potremmo essere esposti a n sorgenti, non sappiamo quella X in che posizione si trova, quindi è necessario avere una sonda che sia sensibile su un volume isotropo. Questa tipologia di strumenti si chiama banda larga proprio perché è in grado di effettuare una misura su un ampio spettro di frequenze, in particolare questa sonda che abbiamo qui lavora da 100 kHz fino a 3 GHz, quella nuova che è già uscita arriva fino a 40 GHz e ovviamente in questo span di frequenze ha una risposta pressoché piatta come sonda. È chiaro che non sono in grado a questo punto, io se ho uno span di analisi da 100 kHz a 40 giga o a 3 giga come questa, non sono in grado di capire dove si trova la mia sorgente, e quindi già qua ho trovato un limite di questo tipo di strumentazione. Ecco, andiamo subito a vedere le note dolenti. Quali sono? Innanzitutto una scarsa accuratezza, perché ovviamente dandoci un valore complessivo e cumulativo di tutte le sorgenti che agiscono su questo elemento sensibile, è chiaro che non può essere accurato sulla singola sorgente, quindi ci dà un valore che è sempre sovrastimato rispetto al caso reale. Può anche sbagliare del 50%, 40-50%, che in termini logaritmici sono 3 dB, non sono poi... è facile trovare uno scarto di 3 dB in una misura. E soprattutto se lo utilizziamo per la diagnostica non ci fornisce nessuna informazione sulla tipologia di sorgente, perché noi vediamo un valore sul display, come vedrete dopo, però non sappiamo relazionarlo a nulla, a meno che non utilizziamo, ma questo vale solo per la banda 50 Hz, non utilizziamo la sonda che magari vi mostro, che lavora a 50 Hz ed è in grado di effettuare una FFT, una trasformata di Fourier digitale sul segnale acquisito, e vi dà un'idea di quelle che possono essere le componenti, ma ovviamente è un'elaborazione digitale, non è una misura, non è uno strumento di misura a banda stretta. I vantaggi però ci sono, perché comunque intanto costa molto ma molto meno di una strumentazione di questo tipo. Un kit completo con tutte le sonde, logger, ripetitore ottico eccetera, fibra ottica, può arrivare a 10.000 euro. Per questo tipo di strumentazione qui, questo qui costa ben di più. La facilità di utilizzo lo vedete anche, questo è su un tavolo, questo è palmare, lo si può portare in giro, lo si può posizionare molto comodamente, eccetera. Non richiede settaggi particolari, perché questo, una volta acceso e impostate alcuni parametri, è in grado di darvi il valore, però poi bisogna saperlo interpretare quel valore, perché non è detto che non stiamo prendendo una cantonata colossale utilizzando, perché magari semplicemente vi do un input, la sonda è vicino a un armadio metallico, l'abbiamo posizionata lì, l'armadio metallico mi fa da piano riflettente e sulla sonda mi trovo un valore che è spropositato, quando in realtà non è così. Quindi anche qui è molto importante, per fortuna, le dico per fortuna, l'apporto del professionista. Oltre a questi, ovviamente, se vogliamo andare in profondità e fare una misura diagnostica e selettiva a tutti gli effetti, abbiamo a disposizione una strumentazione a banda stretta, quindi in grado di, diciamo così, isolare le componenti frequenziali con una risoluzione molto molto spinta. In uno span di frequenze, per esempio, questo qui arriva a 26,5 GHz. Allora, all'interno di questa banda di funzionamento noi possiamo andare a fare delle analisi, e qui sì possiamo individuare la tipologia di sorgente, perché ricordatevi, anche se veramente ho corso tantissimo, le differenze proprio a livello di spettro dei vari segnali digitali e analogici, e possiamo riconoscerli in prima battuta. È chiaro che in questo caso però bisogna essere molto bravi e saper utilizzare molto bene questo tipo di strumentazione, perché non è nulla di automatico questo strumento, ci dà 1000 bottoni da poter toccare, 1000 pulsanti, e dobbiamo saper toccare quelli giusti, perché possiamo anche qui prendere, forse ancor più di questo strumento, possiamo prendere delle cantonate incredibili. Lo strumento a blocchi, lo vedete, eccolo qui, in maniera molto grossolana abbiamo un input che deriva dall'antenna di misura, eccola qui, abbiamo un input che va al mixer, che è un traslatore in frequenza, che è la parte più delicata di questa strumentazione, che se non riusciamo a avere già una valutazione della potenza incidente rischiamo di fondere, per poi andare a un filtro selettivo, che è l'elemento delicato che, se non impostato correttamente, ci fa prendere le famose cantonate, perché all'interno del filtro selettivo possono passare una ma anche più componenti, e alla fine il valore che noi vediamo è un sviluppo di tutto quello che passa nel filtro selettivo, quindi possiamo leggere un valore molto più alto rispetto magari alla componente che invece vogliamo analizzare. Siamo tutti colleghi, mi pare di capire, quindi sappiamo bene, magari da reminiscenze degli studi, che cos'è la convoluzione, cioè l'analizzatore di spettro non mi dà in uscita il segnale, ma mi dà in uscita la convoluzione tra il segnale in frequenza e la maschera del filtro selettivo attraverso cui è passato. Quindi capite com'è importante andare a impostare questo tipo di parametro. Eccolo qui l'errore tipico che può accadere: filtro selettivo troppo ampio, entrano tre componenti anziché una, quella sarebbe l'analisi corretta, vado a fare un'analisi di questo tipo e mi trovo un inviluppo che è ben più alto e, non va, e comincio a perdere anche delle sorgenti, delle componenti. Ecco, di solito come viene usato questo strumento? Molto spesso viene usato in maniera, diciamo così, tradizionale, cioè si va a fare un'analisi di picco, ma facendo un'analisi di picco possiamo sia incappare in quell'errore di prima, ma possiamo anche, ed eccolo qui, capite tutto, quindi facendo un'analisi di picco io vado a valutare solamente il picco che è dato dall'inviluppo delle tre componenti e ottengo una sovrastima. Anche questo quindi mi permette, tra virgolette, di sbagliare del 50% come mi metteva a rischio questo strumento qui. Ma qui è un errore che faccio io, perché sbaglio ad usare lo strumento. Qui è un errore insito nello strumento, è un'incertezza dello strumento stesso. Ecco, vedete, come diciamo prima, che sbagliare di 3 dB vuol dire sbagliare del 50% in più. Un'altra problematica è che non riusciamo a inseguire segnali impulsati. Ad oggi il 90% delle comunicazioni che abbiamo visto prima, digitali eccetera, utilizzano segnali impulsati e questo strumento qui è molto difficile da utilizzare in maniera tradizionale per seguire segnali di quel tipo e quindi ci può dare errori di, come vedete qua sotto, cioè non va a seguire il segnale ma dà una stima di sviluppo. Il segnale GSM è un segnale che poi vedremo impulsato, al contrario dell'FM che invece, come dicevo prima, è sempre on alla stessa potenza. Quindi, siccome stiamo parlando di misure ambientali, concludo dicendo che l'utilizzo di questa strumentazione con il metodo tradizionale, ossia l'analisi di picco, non è assolutamente indicato per misure ambientali. Primo, perché i segnali ambientali sono fenomeni aleatori, innanzitutto, quindi è difficilissimo trovare un segnale ambientale irradiato che sia periodico e quindi l'utilizzo di questa strumentazione deve essere molto molto pensato e rigoroso. Esistono per esempio due tecniche di utilizzo che ci consentono di fare misure accurate su segnali ambientali utilizzando l'energia di spettro. Si chiamano span zero e power density. Non posso entrare nel dettaglio di questa cosa perché ci vorrebbero 3 giorni. Non ho idea di che ora sia e andiamo subito alla parte. Stiamo riprendendo tutto, per cui il video verrà messo in rete a disposizione degli iscritti. Adesso vorrei farvi vedere come alcune delle sorgenti che abbiamo appena visto disegnate e che abbiamo qua in realtà danno contributi a livello di campo irradiato. Classica GSM a livello di utilizzo della risorsa spettrale è diversa dalla telefonia UMTS. Anche le stazioni radiobase che ci stanno coprendo attualmente sono diverse come tecnologia, sia come potenza irradiata sia come ampiezza della cella. Allora andiamo a vedere un telefono UMTS. Adesso io sono coperto dalla 3G e quindi lavoro in UMTS. Invio una chiamata. Non so se si vede qualcosa, ma non penso. Riuscite a vedere? Se no vi leggo io. Comunque lì c'è scritto low, che vuol dire che è sotto la sensibilità dello strumento. Il telefono è in chiamata, non so se riuscite a sentire che suona libero. E come vedete lo strumento non segna nulla. Quindi vuol dire che questa strumentazione, che per carità, con tutti gli errori che si porta dietro, la sensibilità, eccetera, vuol dire che il campo radiato da questo, adesso io non devo fare pubblicità a nessun marchio, ma dico, parlo di tecnologie, cioè la tecnologia UMTS in questo caso a livello di dispositivo è molto meno impattante di una tecnologia GSM che andiamo a vedere adesso, che dimostro subito. Faccio una premessa, entrambi i telefoni stanno lavorando in massima copertura, quindi siamo nelle condizioni ottimali e di minima emissione per ciascuno dei due, perché voi sapete che con il controllo dinamico della potenza, quando un telefono prende meno, diciamo riduce le sue tasche, spara più potenza per arrivare alla stazione radiobase e quindi si scarica prima e irradia di più. Allora, questa sonda, inseriamo adesso, va a rilevare il campo elettrico da 100 kHz a 3 GHz. Quella di prima individuava il campo magnetico, ok? Va a rilevare il campo magnetico. Quando si inserisce una sonda di questo tipo, lo strumento fa un'autocalibrazione, carica tutti i dati della sonda che sono in una EEPROM all'interno e viene riportata la data di calibrazione. Tutte queste strumentazioni ovviamente devono essere mantenute tarate e calibrate durante gli anni. Allora, adesso andiamo a vedere la sonda di campo elettrico, sempre in chiamata UMTS. Però vedete? Vedete come passa? Siamo alla soglia della sensibilità dello strumento, cioè va da low a qualche valore superiore alla soglia di sensibilità. Stiamo parlando di volt su metro. Volt su metro, ok? Questo è il telefono UMTS. Andiamo a fare la stessa chiamata con le stesse condizioni di copertura. Riuscite a leggere? 13. Questi ce li abbiamo sull'orecchio quando lo usiamo, eh? 10, 9, 7, 10, ecco. 14. Ovviamente il picco più alto ce l'ha quando aggancia la stazione radiobase, poi quando andiamo in conversazione si stabilizza. Però due telefoni comunque sono nuovi entrambi, però sono due tecnologie differenti e vedete come l'impatto su strumentazioni e misure di questo tipo è differente. Ok? Quindi questo per farvi capire come quello che abbiamo visto prima velocissimamente poi cambia a livello di campo irradiato. Adesso facciamo un'altra misura e andiamo a utilizzare un auricolare. Allora, utilizzo sempre il telefono tra virgolette più inquinante. Inserisco l'auricolare, faccio la chiamata, porto vicino le cuffiette, un attimo, eccola qui, 2, ok? Quindi vedete, Io da qua non vedo nulla, non so se voi riuscite a vedere qualche nano, però... Riuscite a vedere? Sì. Okay. Allora sono problemi miei. 1, 2. Ecco. 10 volte meno. Rispetto a prima siamo 10 volte meno. Qual è il rischio, ma proprio dobbiamo essere sfortunati, il rischio di utilizzare questi auricolari è che la lunghezza del cavo sia proprio accordata con la frequenza del telefono e quindi ci troviamo fatalità sulle cuffiette proprio ci troviamo un massimo dell'onda, quindi un ventre dell'onda, però deve essere veramente una situazione sfortunata. Vedete come già utilizzare il normale auricolare cambia i livelli di radianti. Prima avevamo 11, 10, 12, adesso abbiamo un fattore 10. Auricolare Bluetooth. Attivo. Ma questa sera nessuno più c'è là. Ok. Ecco. Adesso l'auricolare è acceso, ma non è in chiamata. Ok? Quindi adesso è semplicemente associato via Bluetooth a questo telefono. Ok? Visto che siamo ripresi, mi tocca nascondere anche la. Se no ci arriva qualche denuncia. È solo associato. Adesso andiamo in chiamata. Adesso sta ovviamente comunicando. Vedete che comunque abbiamo dei livelli tutto sommato contenuti, utilizzando in questo caso una tecnologia wireless, perché è senza fili, al contrario di questo. È una tecnologia Bluetooth, ma la potenza è molto bassa, quindi vi rendete conto come a livello di sonde siamo comunque con valori veramente insignificanti. Ecco, questa è la prima cosa di impatto. Ve ne faccio un'altra veloce, perché è interessante per chi usa tante ore il PC portatile, per esempio. Qui dovete fidarvi perché non riesco a mostrarvi lo schermo. Comunque, allora, intanto io vi posso fare questa, non so se magari la prima fila riesce a leggere. Io leggo 4 volt su metro, 4 volt su metro, sempre 5, eccetera, eccetera, sempre con la stessa sonda di prima. Guardate qua, 65 volt su metro, 65 volt su metro, 164 volt su metro. Ok? No, non ve lo spiego perché prima vi faccio vedere là. Anche qui non devo fare pubblicità a nessuno, e quindi anticipo per le riprese o per i video o per chi vedrà i video dopo che i marchi sono assolutamente ininfluenti su questa cosa, ma è la tecnologia che c'è dietro che è diversa. Qui abbiamo low. Per come mi sposti abbiamo sempre low. Allora, qual è la differenza tra questi due? Non il marchio, ma la tecnologia di schermo che abbiamo. Ossia, questo è uno schermo a LED e questo è uno schermo a lampada. Lo schermo a lampada utilizza un inverter che alimenta le lampade. E l'inverter è posizionato proprio qui, dove abbiamo trovato 69. Via così. Il picco che avevamo trovato era 100 e passa. Questo è un caso interessante, per esempio, di un elettrodomestico, lo definisco io, uno strumento di lavoro che comunemente usiamo tutti e che può sottoporci mani o comunque teste. Io ho visto tanta gente lavorare molto vicino al monitor e quindi mettendo la testa in questa situazione quando avevamo la sonda, e capite come tecnologie differenti danno irraggiamento differente. Vado verso la conclusione. Quindi avete visto un rapido utilizzo del banda larga, della strumentazione a banda larga. Vedete, comoda da utilizzare, si innesta la sonda, baionetta, viene riconosciuta automaticamente e si fa la misura. Io mi sono spostato agevolmente, eccetera. Chiaramente se dovessi fare una misura secondo decreto, devo rispettare le norme di buona tecnica, quindi devo mantenerla in posizione per 6 minuti, farla su 3 differenti altezze, fare una media temporale e fare una media spaziale. Quindi adesso ovviamente era una dimostrazione. Qui cosa vi trovate? Qui vi trovate un analizzatore di spettro, banda stretta, già impostato su, proprio perché sapevo già di essere in ritardo, quindi l'ho impostato prima sulle frequenze FM. Frequenza FM, come vedete, sì, abbiamo una piccola variazione di potenza, una piccola oscillazione, ma dipende da da come è posizionato l'elemento sensibile, ossia l'antenna, anche dalla sua polarizzazione. Questa è un'antenna non isotropa come la sonda di prima, questa è un'antenna anisotropa, è equivalente a un dipolo messo in questa direzione. Così cambia. Quindi io adesso, ovviamente, perché non posso portare cavalletti per tutte le sonde, ecco, questo è un segnale FM. Vedete come l'escursione in ampiezza è minima rispetto a quello che vedremo dopo. Una cosa interessante, o comunque di impatto, potrebbe essere questa, cioè un utilizzo alternativo di una strumentazione a banda stretta. Torna nel suo regno, ecco. Allora, ovviamente, questa è una cosa ovviamente pittoresca che si fa nei corsi, però non è un consiglio. O il consiglio che vi do è quello di acquistare un analizzatore rispetto per ascoltare la radio, però può darci una grossa idea in fase diagnostica, perché se io mi posiziono sul segnale e vado a demodularlo in FM o in AM, quindi demodulazione analogica, ovviamente non posso fare altro con questo, però sento un segnale del genere, capisco che è una sorgente FM. Okay. Vedete? Adesso è fermo perché sta demodulando, comunque il segnale lo vedevate prima, quindi era... Spegniamo la radio. Quindi segnali analogici tipo questo, vedete, banda stretta, picchi molto, molto limitati in frequenza e facili da analizzare. Adesso... andiamo... qua. Allora, ecco, io adesso mi sono posizionato nella banda del GSM, in particolare nella banda del downlink, cioè dalla stazione radio base verso i telefoni, perché in questo caso è più facile trovare portanti, perché se mi metto nella banda dell'uplink e non ci sono telefoni qua che conversano, non trovo nulla. Quindi metto nella banda del downlink, vedete come il segnale varia in ampiezza. Purtroppo ne troviamo poche, speravo di trovarne un po' di più. In ogni caso potrei farvi vedere allora adesso come questo tipo di sorgenti utilizzano la risorsa frequenziale in maniera diversa, cioè il TDMA. Allora vedete, ce n'è una è sempre su, una è sempre on, e altre compaiono e scompaiono. Quella sempre on è la portante di servizio, una BCCH tipicamente per chi è del settore. Quelle altre che compaiono e scompaiono sono comunicazioni. Okay. Quindi adesso io mi posiziono su quella on. Mentre volevo mostrarvi il time slot. Purtroppo abbiamo poche, ma quindi è una mano che magari posizioniamo diversamente l'antenna, dobbiamo prendere più sorgenti. Ce n'è quindi della variabilità rispetto alle stazioni FM che abbiamo visto prima. Questo è proprio quel TPC di cui vi parlavo, cioè la trasmissione, il controllo dinamico della potenza. Vediamo un po' se riusciamo a... Vediamo stellini. No. No, che cambia. E adesso non vediamo il video. Quello che sto facendo sostanzialmente, mi sto posizionando su la frequenza sul picco, e a quel punto cosa vado a fare? Vado a fare un'analisi span zero, cioè vado a utilizzare l'analizzatore di spettro tra virgolette quasi come un oscilloscopio, cioè vado a fare un'analisi nel tempo, quindi vado a non più a vedere l'asse delle frequenze, ma a quel punto lo span diventa zero e vado a analizzare il segnale nel dominio del tempo. A quel punto vedreste una cosa simile alla... eccoli qua, ecco, adesso li vedete bene, vedete come... adesso triggeriamo un attimino il segnale così vi sta fermo. Eccolo qua, ecco. Ovviamente non sono segnali che trovate con continuità, ma dipendono dalle comunicazioni che ci sono in corso, per cui quando una comunicazione cade o comunque viene interrotta, l'utilizzo risorsa tempo viene annullato. Ricordate che voi occupate un time slot, ecco, abbiamo trovato la fonte del time slot, chi sta occupando il time slot attualmente è uscito, e voi occupate il time slot solamente quando siete in conversazione, quindi quando ascoltate non state occupando quel time slot, il vostro time slot relativo. Ecco, vedete allora, e qua chiudo perché ce ne sarebbero tante cose da mostrarvi, però eventualmente vediamo di organizzare un altro, comunque siamo a disposizione per mail, contatti, domande, eccetera. Vedete come la differenza è evidente tra segnali analogici e segnali digitali che utilizzano la risorsa frequenza tempo in maniera differente, con tecniche di modulazione digitale piuttosto che tecniche di modulazione analogica. Questo vi spiega anche perché i livelli di campo irradiati da tecnologie digitali di ultima generazione sono molto più bassi rispetto a un'antenna FM che tutti danno per scontato, perché ormai esiste da tempo sui nostri colli, eccetera. Ormai siamo tutti abituati ad ascoltare la radio e nessuno si preoccupa più di questi impianti, ma avete visto come le potenze in gioco sono decisamente differenti. Vi ringrazio e mi scuso per il ritardo.